Sound check, il suono della musica di Gegè Telesforo. Eccoci pronti per il sound check, prova del suono dal Groove Master Studio di Radio 24. A tutti voi buonasera da Gegè Telesforo e sono felice e onorato di ospitare qui nel nostro studio uno dei miei musicisti preferiti. L'ho visto dal vivo tante volte, conosco molto bene la sua musica e soprattutto la sua mentalità e la sua arte. Ecco, secondo me definirlo un musicista è quasi riduttivo. Io lo considero un grande artista e vi sto parlando di Israel Varela. Buonasera Israel, benvenuto al sound check. Buonasera, buonasera a tutti e buonasera a te, Jason. È un onore per me essere qua. No, per me è un grande piacere, Israel. Io ho visto i tuoi concerti e mi sono sempre divertito ed emozionato. È una cosa rara, no? Andare a un concerto, emozionarsi e divertirsi. A volte ti emozioni e ti annoi allo stesso tempo. Invece ho notato che quando tu metti su un tuo spettacolo, sebbene la tua musica non sia così facile, no? Però è molto evocativa e quindi stupisce anche chi è proprio non è così vicino al jazz o alla world music. Esatto, sì, cerco sempre di trovare, non è sempre facile, però trovare quel bilancio, appunto, di soprattutto che la gente che viene al mio concerto esca e se ne vada con qualcosa veramente che stia meglio di come è arrivata. Quindi. E questa è una cosa molto importante, sì, è bello mandare la gente a casa con il sorriso sulle labbra o comunque con un'emozione che ancora uno si porta sulla pelle. Esatto. Tanto per raccontare qualcosa di te agli amici italiani che non conoscono la tua carriera, insomma tu hai suonato tanto in giro, intanto parli perfettamente l'italiano perché la tua lingua madre è lo spagnolo, tu sei messicano di origine, sì, no? Sì, sì. E quanto tempo sei rimasto in Messico? Fino ad adolescente, poi ho cominciato, sono andato a Los Angeles a studiare con Alex Acuña e mi sono trasferito. Ma hai studiato, che ne so, al Musicians Institute a Los Angeles? Sempre, no? Privato. Sempre privatamente? Sempre privatamente. Lui poi mi ha raccomandato con Dave Weckl, la parte batteristica, come pianoforte, musica a casa mia, ho studiato perché mio padre, tutti a casa mia sono musicisti, quindi dai miei nonni, da tutte e due le parti, quindi e mio papà è concertista. Quindi nel DNA c'è il ritmo e tra l'altro quello che tu proponi dal vivo, ma anche nei dischi, sul tuo strumento, è una poliritmia favolosa. Insomma, è difficile con gli occhi chiusi pensare che una sola persona che propone tutti quei suoni e li combina così, così bene. Complimenti. Grazie, grazie. Vabbè, quella è stata una ricerca, ovviamente, è come raccontare anche la mia vita con questi ritmi qua, perché alla fine parto ovviamente da un mondo latinoamericano, ma poi l'incontro col flamenco è stato fondamentale per me, perché quello che realmente faccio o cerco di fare con la batteria è un po' racchiudere questa storia, diciamo, del miscuglio tra il flamenco con la musica latinoamericana, usando elementi dei suoni, soprattutto del ballo flamenco, del cajón, delle chitarre, della voce. Quindi alla fine cerco, diciamo, di combinare questi elementi, alla fine è uscita la mia personalità. Sì, insomma, una personalità che musicalmente è fortemente caratterizzata dalla presenza del ritmo, la devozione al groove e l'utilizzo anche della voce, quindi un aspetto melodico che è molto importante per la musica. E tra l'altro c'è proprio la tradizione messicana, la melodia per i messicani è importantissima, cioè alcune delle canzoni più importanti di sempre sono canzoni messicane e a volte lo dimentichiamo. Esatto, e no, lì mi tradisco un po' a me stesso, nel senso che tutta la parte, se senti la mia musica ritmicamente, è sempre a volte complicata così, ma la voce è sempre una melodia, sempre, non uso mai cose troppo difficili. In realtà a livello vocale mi piace molto cioè se senti la mia musica sembra facile quando l'ascolti, ma quando la devi suonare ovviamente ritmicamente è abbastanza complessa. Però se tu la senti, chi viene a un concerto, comunque alla fine quello che gli arriva più la melodia. Certo, certo. E tra l'altro in qualche modo mi ricorda una lezione che anche tu hai appreso da un musicista con il quale hai collaborato, che è Pat Metheny. Sì, sì, sì, assolutamente. Che cosa hai appreso lavorando con Pat Metheny? Allora, musicalmente o personalmente o in generale? Beh, in generale. In generale, dai. Allora, se devo proprio fare una... Condensare è la disciplina e la serietà a quello che si fa. Nel senso che lui, è quello che ho imparato di più, sì, è una persona molto... che prende molto sul serio la musica. Ah, sì. È proprio in una maniera molto bella, molto... molto seria, e quindi la disciplina che ha con la sua musica, di quello che ha, le idee molto molto molto chiare di quello che vuole. E anche tu dimostri di avere le idee molto chiare in questa nuova pubblicazione che si intitola Invocations per Alpha Music, compagni di avventura che ormai sono con te da parecchio tempo, da Angelo Trabuco, bravo pianista, Alfredo Peixão, brasiliano, eccellente bassista, e poi c'è special guest la nostra amica Rita Marcotulli, che scrive per te questo brano intitolato Everything Is Not. C'è la tua voce, e quindi darei il via alla musica con Israel Varela qui al Soundcheck di Radio 24. Israel Varela, ospite del Soundcheck per presentarci questa nuova pubblicazione intitolata Invocations, e c'è una cosa che ci propone il tuo ufficio stampa, una nota che mi ha colpito molto. Per Varela la musica è un dono, è uno strumento di pace. Lo stesso titolo Invocations invita a riflettere sul potere dell'invocazione e sull'aiuto divino che è dentro e attorno all'uomo. Bene, allora, insomma, è una motivazione importante, mi sembra. Certo, certo. In realtà penso che la musica, in ogni cosa che facciamo, non solo chi è musicista o artista, ma in generale l'essere umano c'ha, comunque sia, al di fuori e dentro di noi ci stanno tutte le risposte, tutte cioè l'essere divino che c'è dentro e fuori, no? Ho notato che alcuni testi di questo album, cioè i testi di questo album, sono ispirati o ripresi da degli scritti importanti. Che tipo di scritture? Sì, sono tutti o salmi o scritti biblici. Era stato questo disco, tra l'altro, è stato dedicato a mia mamma, che purtroppo non c'è più. Mi dispiace. Che non c'è più in questa dimensione. È ancora con noi, no? Certo. Però è nato proprio nel percorso che ha fatto di una malattia, e lei che mi ha proposto questi testi, e abbiamo deciso insieme alcune di queste cose. Poi casualmente, proprio per il destino, proprio il giorno che tornavo con il disco in mano, è successo che è partita, no? Però ovviamente l'ho ascoltato già tante volte, e lei comunque sapeva tutto di questo disco, quindi... E appunto i testi li abbiamo scelti insieme, sono tutti testi biblici, e per parlando tante volte si parlava anche della guarigione, no? Quando uno pensa alla guarigione di una malattia, però in realtà la guarigione, come l'ho scritto anche nel disco, può essere anche non solo fisica ma mentale, spirituale. C'ha tante facce, no? La guarigione, quindi attraverso la musica noi possiamo guarire anche le persone. Come dici te, in un concerto arriva una persona magari che ha tanti problemi, dopo un concerto a me mi è capitato che possiamo cambiare la vita delle persone, o magari una persona che non sapeva niente di musica il giorno dopo si dedica alla musica, quindi per me i miracoli sono anche quelli, no? Beh, noi lo diciamo sempre qui al Soundcheck, che la musica ci aiuta senz'altro a vivere e in alcuni casi a sopravvivere. Esatto. Allora, passiamo a Pat Metheny, con il quale tu hai collaborato, e vorrei ascoltare con te un brano scritto insieme al suo compagno di sempre, Lyle Mace. Il brano si intitola Better Days Ahead, una bossa nova con una melodia splendida, brano proposto in Letter from Home del 1989, qui al Soundcheck. Soundcheck. Il suono della musica. E questo è il suono del batterista Mark Guiliana qui al soundcheck di Radio 24. Il brano si intitola 2014 dall'album Family First, album che vede Mark Guiliana protagonista proprio come leader di questo organico del suo quartetto, con Chris Morrissey al contrabbasso, Shai Maestro al pianoforte e Jason Rigby al sax tenore. E Mark Guiliana rappresenta oggi, insomma, il drumming contemporaneo, cioè un musicista versatile, curioso, che conosce il linguaggio del jazz, conosce lo strumento e tira fuori da questo strumento suoni potenti e delicati al tempo stesso, con l'utilizzo molto spesso di poliritmia e pattern ritmici che si rifanno anche al lavoro dei disc jockey, quindi i loop e le batterie elettroniche. E mi piace introdurre questo argomento proprio perché il nostro ospite quest'oggi è Israel Varela, un altro maestro di batteria che è venuto a trovarci per presentarci il nuovo album dal titolo Invocations. Quindi la batteria ha fatto dei grandi passi avanti. Quanto è stato importante il lavoro anche dei disc jockey o delle campionature, l'utilizzo delle batterie elettroniche e per esempio anche il mondo del gospel, quei gospel chops per i batteristi contemporanei? Molto, molto, molto. Tra l'altro poi conosco molto bene, soprattutto Shai Maestro, un grandissimo amico, fratello, e conosco anche Mark. E penso anche, ovviamente, la differenza, parlando anche di ritmo, di poliritmie o di cose, a parte ovviamente questo che hai appena citato, ma siamo tutti batteristi che suoniamo o che veniamo da un altro diciamo strumento. Per il mio caso, io sono prima pianista, canto ovviamente, e poi la batteria è arrivata dopo, e comunque per me il pianoforte, quando io suono la batteria, penso ovviamente magari a volte di più pianisticamente che batteristicamente. Mark, anche lui, Shai Maestro, per esempio, un pianista incredibile, che lui suona tablas, suona la batteria incredibilmente, quindi c'è sempre questo, come si dice, una cosa con l'altra si una visione più completa della esatto. musica. Tant'è vero che molto spesso gli album creati dai batteristi, che hanno i batteristi come leader, a volte non devo dire che deludono da un punto di vista proprio strumentale, perché uno si aspetterebbe album con grandi assoli di batteria. Invece i batteristi sono molto melodici e nei loro album incredibilmente delicati. Esatto, che non serve in realtà, io penso, no? Penso anche nei miei concerti raramente faccio anche una solo, perché io so, e la gente ovviamente sa, che posso fare una solo, però se la musica non sta chiedendo quelle cose in quel momento, a volte è meglio il non fare che il fare troppo, no? Quindi sono dell'opinione che la musica stessa ti dice la direzione, a seconda anche della serata stessa o del concerto, del posto. Alcuni paesi dove stai, magari sei ispirato in quel momento a fare certe cose. A me mi capita, magari sto in Indonesia, dove ti ho visto, tra l'altro. Sì, ci siamo incontrati a Jakarta, esatto, in un club. Che magari sto lì e lì mi viene con l'idea del gamelan e altre cose che qua magari non certo. farei. Quindi dipende anche a seconda geograficamente e nel momento in cui stai in una situazione. Quello che ti viene. Questo dimostra anche una grande sensibilità, no? Sicuramente. Poi la cosa bella, ecco, tu appartieni come tanti a una serie di artisti e musicisti liberi, no? Sei artisticamente libero di creare la tua musica e quindi di trovare anche partner adeguati che possono supportare certo. il tuo lavoro. Non hai mai pensato di scrivere cose più facili per strizzare l'occhio al mercato? Ho pensato, sì, però cioè, è la mia natura, comunque sono fatto così. A volte anche quando cerco di fare cose più semplici, alla fine mi viene sempre la mia musica così. Quindi viene fuori la tua musica. Allora sì, diamo un esempio della tua musica presente in Invocations. Io lo voglio dire agli amici, è veramente un bel disco, un disco grazie. Che ci fa riflettere per le tematiche trattate. È un disco molto piacevole all'ascolto, ma al tempo stesso da studiare, perché in alcuni momenti ritmicamente abbastanza complesso. Israel Varela con Angelo Trabuco al pianoforte, Alfredo Paisciao. Il brano si intitola Hill e questa è una tua composizione. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. La, la, la. Non ti nascondo, mio caro Israel, che quando ho ascoltato questa versione di Quando del nostro amato Pino Daniele sono impazzito. Ho detto, ma guarda che sensibilità e anche come suona bene una composizione nata in italiano napoletano in lingua spagnola. Mi auguro che questa tua versione possa essere ripresa anche da cantanti che non appartengono poi solo al mondo del jazz, perché credo che la musica e le composizioni di Pino Daniele siano trasversali, di grande qualità, ma anche con un appeal facile che viene da melodie immortali come Quando. Bellissimo brano, infatti io quel brano è stato uno dei primi che ho sentito cantanti da lui quando sono arrivato lì a fare le prove qui a Roma, no? Sì, perché tu hai lavorato con Pino. Sì, ho lavorato con Pino, ma soprattutto io quando ho lavorato con lui non sapevo chi fosse, la verità, nel senso che a me mi ha chiamato Alfredo Paixão. Ma ti sei avvicinato a Pino Daniele come batterista, percussionista? Sì, no, batterista. Come batterista? Sì, okay. Proprio in quei giorni lui stava cambiando idea, non so chi c'era la batteria, alla fine mi chiama Alfredo e da una parte del telefono c'aveva Pino, dall'altra me. Gli diceva, Pino, no, lui suona con gli spagnoli, no, guarda, fidati. Al giorno dopo andiamo a fare le prove. E pensa, questo brano qua, di Quando, l'ho sentito lì a piano e voce, era a piano e voce come l'ho riportato io qua. E la prima volta che l'ho visto ho detto, senti, ma questo brano è bello, l'ho detto, secondo me potrebbe avere, perché non sapevo chi fosse con la mia, adesso mi vergogno, no? Però al tempo ero appena arrivato qua, alla zona del Lazio. In realtà tornavo dalla Spagna, quindi non lo conoscevo come artista, no? E poi dopo ovviamente... E poi sei andato in giro, hai fatto concerti. Il primo concerto a Napoli, hai capito chi era Pino Daniele. Sì. Vabbè, poi musicalmente ovviamente dall'inizio, ovvio. Certo. No? Senti, ma tu adesso vivi in Italia? Stai qui? Sì. Insomma, sei sempre in giro, però sì, la residenza casa mia è a Pontinia, è un paesino vicino al Circeo. Ah, vicino al Circeo. Sì, però sei sempre in giro. E tra l'altro io ti ringrazio perché parti proprio domani mattina, quindi potevi restare tranquillamente a casa e ci saremmo visti, ma chissà quando, perché sei perennemente con la borsa fatta e a prendere aerei. E domani dove vai? Vado in Qatar. In Qatar? Che vai a fare in Qatar? In Qatar? Concerti, musica? Sì, è la quinta volta che vado. Mm. Lì stanno crescendo delle belle situazioni. Sì, sono stato lì già diverse volte. Lì adesso vado a fare dei concerti con la mia musica, vado a fare delle masterclass e vado a registrare anche un disco di un altro batterista che si chiama Michael Pignaghi, che fa un disco che vado come ospite e come batterista anche. Quindi però è un progetto non proprio convenzionale, esatto, molto studiato, molto bene per creare delle cose a due batterie, che non è sempre non è facile per niente, certo, no? Certo. Quindi Israel Varela, nostro ospite al Soundcheck, io ti ringrazio tantissimo, complimenti per Invocation e poi tra l'altro adesso andiamo a festeggiare tua sorella perché è il suo compleanno. Sì, tanti auguri. È vero. Volevi aggiungere qualcosa, Israel? Ringraziarti grazie a te, ringrazio a Fiorenza Gherardi, il mio ufficio stampa, a Silvia, a tutti voi che siete stati e siete sempre carinissimi e vi invito a far parte in qualche modo, chi ci ascolta, di far entrare la musica nelle nostre vite, perché fa bene. Grazie a Israel Varela. Noi vi lasciamo con il suono del sassofonista Jacques Schwarzbart. Questo brano mi è sempre piaciuto, si intitola Badesile, tanto per ricordare il suo legame con Haiti. La voce è quella meravigliosa e unica di Rosna Zila. A tutti voi buona serata, buona musica, grazie a Israel Varela. E ci risentiamo sabato prossimo 19:15 con il Soundcheck, sempre e soltanto su Radio 24.